Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buone nuove dalla ricerca. In uno studio diretto e coordinato dall'Università degli Studi di Brescia e da Humanitas, sostenuto da Fondazione AIRC, i ricercatori hanno scoperto il ruolo fondamentale di una proteina capace di attivare una risposta immunitaria protettiva contro i tumori polmonari. A Obiettivo Salute il commento del professor Silvano Sozzani, docente dell'Università degli Studi di Brescia e principale autore dell'articolo. In questo studio abbiamo capito finalmente, dopo anni di lavoro, qual è la funzione di una proteina. E questa proteina ha una funzione importante perché rappresenta la porta d'ingresso per far arrivare le cellule che possono uccidere le cellule tumorali a livello del tumore, in questo caso del tumore del polmone. Quindi attraverso questa porta le cellule natural killer, che sono cellule che uccidono le cellule tumorali, possono raggiungere il tumore e ucciderlo. Quello che abbiamo anche visto è che il tumore mette in atto un tentativo di sfuggire a questo meccanismo e quindi man mano che evolve spegne l'espressione di questa proteina. E questo ci ha permesso di evidenziare che in grandi numeri nelle popolazioni di pazienti con questo tipo di tumore, chi mantiene l'espressione elevata di questa proteina ha un vantaggio nella sua prognosi, nella sua sopravvivenza a 5 anni. Se noi riusciamo a impedire che il tumore spenga questa proteina, noi riusciamo a dare un vantaggio al sistema immunitario affinché possa svolgere il proprio lavoro in modo efficiente. E a proposito di ricerca, sabato 25 gennaio cerchiamo le arance della salute nelle piazze delle nostre città, aiuteremo AIRC e i suoi 5.000 ricercatori a rendere il cancro sempre più curabile. A Obiettivo Salute il dottor Nicolo Contucci, direttore generale di Fondazione AIRC. Buongiorno, staremo al freddo ma saremo felici di starci a distribuire le nostre arance della salute, perché è la prima campagna dell'anno della Fondazione AIRC ed è quando ricominciamo a raccogliere il denaro che serve al lavoro di 5.000 ricercatori in 110 istituti sparsi per tutto il paese. La cosa più importante che noi assicuriamo con i fondi che diamo a questi ricercatori è che il loro lavoro non si interrompa mai. I migliori sono stati valutati per riceverlo. Noi dobbiamo garantirgli continuità nel finanziamento e quindi è importante che tutti i cittadini che passeranno nelle piazze dove noi saremo e nelle scuole dove distribuiremo le arance della salute facciano la loro parte insieme ai 20.000 volontari che saranno lì per distribuire questi splendidi prodotti per una sana alimentazione. Bene, per oggi è tutto. Tra poco vi aspetto in diretta Facebook. Oggi parliamo di mal di testa. Si può prevenire? Come si deve curare? Ne parliamo tra poco con il nostro esperto, mentre la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Vi aspetto, non mancate. Una buona giornata da Nicoletta.